Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ritorno in Australia per la nostra trasmissione che questa settimana vi farà scoprire una nuova affascinante professione, ma soprattutto vi racconterà la storia di una giovane professionista che è dovuta emigrare fin negli antipodi per poterla esercitare, nonostante lei nella penisola si fosse già fatta un nome. Puntata da non perdere per gli amanti dei romanzi gialli e tra poco capirete perché. Oggi apriamo anche un'interessante finestra sulle vittime collaterali della fuga dei talenti o dei cervelli, le loro mamme. Anche loro sono invitate all'ascolto nella prossima mezz'ora e intanto, come sempre, allacciate le cinture. Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright di Giorgio Alleva, presidente Istat. I giovani sono oggi una delle categorie più svantaggiate. Si tratta di generazioni che spesso, dopo anni di istruzione e formazione, faticano a inserirsi nel mercato del lavoro con ricadute che interessano i comportamenti, le condizioni economiche, le scelte riproduttive e di vita. Così Alleva, che insomma scopre un po' l'acqua calda, purtroppo. E poi ci sono questi dati francamente sconfortanti per un paese che si dice avanzato come il nostro. In Italia il ricorso ai laureati resta un miraggio persino nelle imprese che innalzano la bandiera dell'innovazione. A lanciare l'allarme è il Centro Studi di Confindustria. Le aziende punta di diamante nell'innovazione fanno poco ricorso ai laureati rispetto ai loro competitor europei. In media sono meno del 10% della manodopera occupata. L'80% delle imprese italiane innovatrici si comporta così, contro meno del 40% in Spagna e meno del 50 in Germania. Per gli economisti di Confindustria sono dati che preoccupano, specie in vista della sfida di Industria 4.0. E con queste premesse, quanti giovani qualificati lasceranno ancora la penisola? Siamo italiani e siamo avanti con la testa, ma siamo lenti con le mani perché abbiamo le mani legate dalla burocrazia che è troppo lenta. Paolo Amani, 36 anni, è un entomologo forense a lavoro a Perth in Australia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Solo poco più del 20% degli italiani all'estero pensa al rientro come a un possibile esito futuro, anche a breve, mentre il 31,5% è certo di non voler proprio tornare. È quanto emerge dal 50° rapporto Censis, che ha rivolto una serie di domande a un panel di connazionali che hanno lasciato la penisola negli ultimi anni. Il 62% considera stabile la propria presenza all'estero e intende continuare a vivere nel paese di destinazione. Il 6% si è attivato per restare, il 22% non ha ancora progetti precisi. Rispetto a tre anni fa è aumentata la propensione dei connazionali espatriati a restare nel paese di residenza. Il 52% si riconosce nell'affermazione che indica l'Italia un paese pieno di risorse ma penalizzato dalla sua classe dirigente. Il sud è sempre più a rischio desertificazione. L'allarme arriva dal rapporto della Svimez, che sottolinea come negli ultimi 20 anni il sud abbia perso oltre 1 milione di unità, la maggior parte delle quali concentrate nelle fasce d'età produttive 25, 29 e 30, 34 anni. A lasciare il sud sono ancora i soggetti più qualificati e dinamici. Il 20% ha una laurea. A partire soprattutto i giovani laureati, 478.000 under 35 hanno fatto le valigie tra il 2002 e il 2014. La Svimez punta anche il dito sull'emergenza dei nuovi poveri, lavoratori qualificati che con la crisi hanno visto peggiorare la propria condizione economica. Si tratta di un problema legato a un'enorme sottoutilizzazione del capitale umano di giovani e donne e alla strutturale carenza di occasioni di lavoro qualificato. La crescita occupazionale è legata principalmente a contratti a termine part-time e all'esplosione dei voucher. E la fuga dei giovani dal sud è un depauperamento che in 10 anni è costato oltre 5 miliardi, così precisa il presidente di Confcooperative Maurizio Gardini. Meno laureati, più giovani che abbandonano gli studi e più disoccupati anche tra chi ha raggiunto i livelli di istruzione più alti. Questa è la diagnosi stilata per l'Italia nell'ultimo rapporto sull'istruzione della Commissione Europea. Numerose le note dolenti a partire dal tasso di istruzione terziaria. La penisola detiene il poco lusinghiero primato del dato più basso europeo. Solo il 25% dei giovani 30-34 anni ha completato un percorso universitario, 13 punti sotto la media continentale. Inoltre, il sistema dell'istruzione superiore non riceve risorse adeguate. Altri problemi riguardano l'ingresso nel mondo del lavoro, che in Italia resta difficile e costringe, dice l'Europa, alla fuga dei cervelli. A ottobre il tasso di disoccupazione dei giovani in Italia è stato pari al 36,4%, in calo di 4 decimali, il valore più basso da 4 anni a stimarlo l'Istat, ma attenzione, torna a salire il numero di inattivi, più 82.000 unità su base mensile. L'incremento è dovuto soprattutto alle fasce d'età giovani. La Brexit può mettere fine alla fuga dei cervelli, riportando in Italia gli studiosi del nostro paese che oggi insegnano e fanno ricerche in Gran Bretagna. Questo è il messaggio che l'Associazione dei Docenti Universitari Italiani nel Regno Unito manda al governo in una lettera aperta. La Gran Bretagna conta circa 5.000 professori italiani, secondo una stima del Times Higher Education. Ci spiega tutto il professor Antonio Guarino, docente alla UCL e presidente dell'AISUC. La strada che noi indichiamo è quella che ci viene dall'esperienza nel Regno Unito. La differenza fondamentale è che nel Regno Unito i fondi di ricerca, sia a livello individuale sia per i dipartimenti, vengono attribuiti in base al merito, quindi non a pioggia, non a tutti, ma in base a quanto si è prodotto dal punto di vista scientifico. E se posso anche un po' riassumere, voi dite torneremo se l'Italia diverrà veramente un paese attrattivo non solo per noi ma anche per i ricercatori stranieri. Sì, assolutamente, cioè il problema dell'Italia non è che ci siano tanti ricercatori italiani che sono andati via, il problema dell'Italia è che non attrae persone dall'estero. Il momento in cui l'Italia diverrà attrattiva per i ricercatori italiani all'estero sarà anche il momento in cui sarà diventata attrattiva per tutti. Vi preoccupa la Brexit? Sì, ci preoccupa molto, preoccupa noi italiani ma preoccupa anche i nostri colleghi inglesi. Noi non vogliamo barriere, gli scienziati non vogliono barriere. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Australia, tappa questa volta nella parte occidentale del paese per andare a svolgere un'interessante indagine. Scopriamo subito in compagnia di chi. Nome: Paola. Cognome: Magni. Età: 36. Città di origine: Torino. Studi: scienze naturali. Anno in cui hai lasciato l'Italia: definitivamente 2013. Per andare dove? Australia. Perché? Ho trovato un lavoro migliore e un clima migliore. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono lecturer alla Murdoch University. Dove? A Perth. Tornerai? Se ci sono le condizioni, mai dire mai. Ministra, io ci ho provato a stare in Italia a fare ricerca, ma non c'era e non c'è posto per me, perché purtroppo ho scelto di occuparmi di una materia out of the box, naturalistica e criminalistica, e se in Italia non fai parte di un box, non possono catalogarti e chiuderti dentro. Paola, partiamo da qui, perché anche tu hai scritto, come diversi tuoi colleghi ricercatori, un messaggio in bottiglia al ministro Giannini, mettendo nero su bianco i motivi che ti hanno spinto ad andare in Australia. Ti chiedo, perché l'Italia è un paese così conformista, tanto creativo quanto incapace, paradossalmente, di promuovere, che apre nuove strade e sentieri? Io non lo direi conformista, ma purtroppo la scienza e la tecnologia vanno più veloci che la burocrazia e le leggi, e quindi è fisiologico che l'applicazione del nuovo venga rallentato. Siamo italiani e siamo avanti con la testa, ma siamo lenti con le mani, perché abbiamo le mani legate dalla burocrazia che è troppo lenta. E la tua, Paola, è una storia che ha davvero dell'incredibile. Proveremo, per quanto non semplice, a raccontarla. Partiamo facile con la tua laurea in scienze naturali all'Università di Torino. Cosa ti ha portato su questa strada? Ero da sempre interessata alla natura, agli animali e agli organismi in generale. Non ero interessata agli animali come veterinario, non ero interessata a cose strane, ma semplicemente a guardarmi intorno e a capire cosa stava succedendo. E scienze naturali, più che biologia e geologia, mette tutto insieme e ti fa vedere tutto intorno a te e capire tutte le dinamiche che avvengono nella natura che ci circonda. E lì nasce anche la passione che segnerà la tua vita, l'entomologia forense, passione che nasce quasi per caso nel corso di una lezione, quando un professore la nomina in un breve inciso. Ci spieghi in modo molto semplice cos'è l'entomologia forense? L'entomologia forense è l'applicazione delle conoscenze sugli insetti a questioni di carattere legale, adesso molto conosciuta a causa di CSI, il programma in televisione sui crimini. Si pensa solitamente che gli insetti siano legati esclusivamente alla presenza di un cadavere e all'identificazione del tempo di morte. In realtà gli insetti ci possono dare tantissime informazioni, addirittura informazioni su tempi di maltrattamento, ma anche sulla presenza di droghe, sul movimento di prodotti, sul movimento di merci e sulle infestazioni che ci sono e non ci dovrebbero essere in ambienti dove l'uomo vive. Ecco, estremamente potente. Paola, a quel punto per te quell'inciso, quella breve frase sentita a lezione si trasforma in un'ossessione, anche se positiva, che ti porta a girare mezza Italia e contattare i pochi docenti ed esperti presenti per capirne di più. Cosa fai? Contatto la medicina legale di Torino, che mi manda a Milano, che mi manda a Verona, che mi spediscono in Svizzera e in Inghilterra. Vado a lavorare al museo al Natural History Museum di Londra per un po', vado a seguire tutte le conferenze presenti e l'allora capo della medicina legale mi dà l'accesso alla camera mortuaria dell'obitorio di Torino a seguire tutti i casi di interesse entomologico forense dalla scena del crimine a praticamente l'aula di tribunale. Quindi riesco ad avere un database che nessuno aveva prima per analizzare i casi e gli insetti presenti nel nord Italia nelle situazioni criminose che riguardano l'entomologia forense. E fai tutto da sola. Contemporaneamente consegui un master in entomologia forense presso la Michigan State University, qualche anno più tardi completi un dottorato tra Torino e Perth. Che idea ti sei fatta delle principali differenze di insegnamento tra Italia ed estero? Soprattutto che voto dai all'università italiana? Ma l'università italiana, io ho avuto la fortuna di essere nell'ultimo anno del vecchio ordinamento, dove c'erano semestri di studio estremamente intensi, estremamente difficili, mentre adesso sono un pochino più rilassati. Qui la situazione è molto più rilassata. Se uno vuole conseguire un bachelor, quindi una laurea 3 più 2, la parte dei 3 anni, è molto più semplice rispetto a quella che abbiamo fatto noi. L'università costa molto qui, quindi è tutto molto a pro dello studente. Noi invece ci siamo dovuti fare quello che si dice, il mazzo, per riuscire ad arrivare alla fine. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Paola Amani, 36enne entomologa forense di stanza Perth in Australia. Paola, pur giovanissima, traccia un sentiero nella sua specialità, tuttora poco conosciuta nella penisola. In pochi anni si ritrova a capo di un laboratorio, collabora con procure e forze dell'ordine alla soluzione di casi criminali e ispira persino il personaggio di una nota serie televisiva. Ma tutto ciò non basta, semplicemente non basta in un paese che non riesce proprio a pensare e ragionare out of the box. Anche per questo Paola si trasferisce all'altro capo del mondo. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Attraverso la tua storia leggiamo in controluce un'Italia a due facce. C'è un'Italia incuriosita al tuo percorso che decidi di intraprendere e per 3 anni diventi responsabile del laboratorio di entomologia forense all'obitorio di Torino, grazie anche alla lungimiranza dell'allora capo della medicina legale della ASL. Che ricordi hai di quell'esperienza? Ma è stata una bellissima esperienza perché ho sentito persone intorno a me credere in qualcosa di assolutamente out of the box, completamente fuori da quella che era la loro comfort zone. È qualcosa che era di naturalistico però applicato alla medicina legale. Nessuno aveva pensato di farlo prima e perché dare la possibilità a una ragazzina che bussava alla porta? Lo hanno fatto, ci hanno creduto, hanno voluto metterci la loro faccia e io sono stata contentissima di lavorare con grandissimi professionisti. Sei l'autrice di quello che è tutt'oggi il più recente testo di entomologia forense in italiano e hai collaborato dall'Italia con colleghi di tutto il mondo. A un certo punto anche procure e RIS hanno cominciato a capire le enormi potenzialità del tuo lavoro, tanto che hai partecipato a indagini che hanno riguardato importanti casi di cronaca. Il più complicato da affrontare? Il più complicato da affrontare in realtà non riguarda l'entomologia forense, ma riguarda la scena del crimine in acqua. Io in realtà non mi occupo soltanto di insetti, ma mi occupo della natura che circonda una scena del crimine. In questo caso, che è il caso del lago di Bracciano, quando è stata ritrovata Federica Mangiapelo, non si sapeva chi avesse commesso l'omicidio, io mi sono occupata dell'identificazione delle diatomee presenti nei vestiti del fidanzato che diceva di non essere sul luogo del delitto. Per quanto riguarda gli insetti, un caso famoso su cui ho lavorato è quello di Serena Mollicone, che è stato particolarmente difficile perché è stato un cold case riaperto 9 anni dopo la scomparsa della ragazza e abbiamo dovuto lavorare come si lavora col DNA antico. Paola Mani o Flavia Eroldi, potremmo anche aggiungere che tu hai avuto un tuo doppio ispirato alla tua figura nella serie televisiva RIS Delitti Imperfetti, alla quale hai collaborato, portando poi l'entomologia forense al grande pubblico. Allora ti chiedo, Paola, con una carriera così brillante alle spalle, così giovane, perché a un certo punto hai deciso che era ora di dire basta e andartene in Australia? Perché in realtà a quel punto lì, per quanto diverse procure della Repubblica Italiana mi chiamavano per lavorare su diversi casi e insegnavo alla scuola dei carabinieri di Velletri e Torino e facevo tantissime cose, in realtà non avevo un contratto da nessuna parte. Questo significa che fondamentalmente non sapevo se arrivavo alla fine del mese. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi mai. Paola, cosa ti è stato offerto a Perth? Mi è stato offerto un posto di postdottorato all'Università di Western Australia per lavorare sulle mie ricerche. E continui a svolgere indagini su casi criminali insoluti? Continuo a svolgere indagini sia in Australia che in Italia su diversi tipi di casi che riguardano vittime umane, animali, prodotti, merci e anche l'ultimo caso che ho avuto è su una bomba. Ministro, ai miei studenti australiani che vogliono trascorrere un semestre in un'università straniera non consiglio mai l'Italia. Perché dovrei? Non ci sono attrezzature, non ci sono fondi, ci sono un sacco di baroni che occupano il proprio ufficio senza fare niente, neanche lezione, prendendo fior di stipendi. Non voglio che imparino da loro. Così Paola ha iscritto a Stefania Giannini. Non c'è proprio speranza. La speranza è l'ultimo a morire, dicono. Se il sistema cambia e se si ascolta un pochino quelli che sono le richieste, le speranze e le conoscenze e si fa dei giovani studiosi, dei giovani scienziati, forse si riesce ad arrivare a qualcosa. Per te la nostra domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Non ne ho veramente la più pallida idea. Io sono uno scienziato, non sono un politico e non ne ho la più pallida idea. Viva la sincerità. Ci raggiunge ora in linea Claudia Rosa, medico legale. Buon pomeriggio, Claudia. Buon pomeriggio. Allora, il link, il trade union che ti unisce alla storia di Paola Magni e l'indagine su un caso che vi ha messo per la prima volta in contatto. Ci racconti brevemente questo aneddoto? All'estate di 2 anni fa, nel 2014, e siamo intervenuti presso un'abitazione a Torino. Non era un caso di particolare rilievo, diciamo, mediatico. Si trattava di una persona trovata nella propria abitazione ed era però posizionata in modo piuttosto caratteristico, era sul proprio letto matrimoniale, ma avviluppata in un sacco creato in modo artigianale. La persona era all'interno, o meglio la salma, quello che ne rimaneva, e chiudeva il sacco con le mani dall'interno. Ora, mediante i dati circostanziali, per noi medici legali non è stato difficile capire che la causa della morte fosse ascrivibile a asfissia accidentale. Come vi ha aiutato Paola? Perché in realtà questo cadavere si trova in uno stato assoluto di decomposizione e putrefazione, e quindi per noi è stato difficile datare questa morte, e nella datazione sicuramente interviene Paola, interviene entomologia forense, tant'è che io personalmente ho raccolto pupe e larve di diteri presenti sulla scena e le ho inviate in Australia seguendo tutti i procedimenti che lei mi ha spiegato. Dall'Australia, interessante. Claudia, cosa hai pensato quando hai notato che una persona così preparata fosse in Australia? Non è un po' incredibile e paradossale che il nostro paese si sia privato di una risorsa così preziosa? Guarda, la prima speranza è stata quella del spero sia soltanto un altro stage, ma che poi torni. E poi però, pensando a lei, in realtà le auguro di stare lì, perché effettivamente lì sta meglio, lì ottiene il riconoscimento che è giusto che abbia. Purtroppo in Italia i laboratori di scienze forensi sono poco presenti, dispongono di scarsissimi fondi. Queste scienze più settoriali sono spesso sconosciute anche ai magistrati e di conseguenza sottovalutate, c'è scritto a giovanitalenti@radio24.it, mentre all'estero, come abbiamo sentito da Paola, le cose vanno un po' diversamente. Non resta davvero che migrare, insomma, spero di no, però. No, non è l'unica soluzione migrare, sicuramente. D'altra parte, come ci spiegava Paola, le difficoltà sono veramente, veramente enormi, e proprio mentre per altre discipline affini, come potrebbero essere l'istopatologia forense, la tossicologia forense, c'è più spazio, c'è più riconoscimento, l'entomologia, così come l'antropologia, sono veramente scienze settoriali e vengono proprio poco considerate. Grazie a Claudia Rosa, medico legale, grazie anche per averci portato in questo mondo che piacerà tantissimo a chi è appassionato anche di gialli. E domanda di rito per Paola Magni: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Sicuramente informarsi molto molto bene sui visti, informarsi molto bene sullo stile di vita, dove sono i centri di eccellenza, perché se si va via, almeno che si vada via e si vada nel posto migliore possibile. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: una direttore esecutivo per la European Casino Association a Bruxelles, scadenza per CV 23 dicembre, curricula info@europeancasinoassociation.org. Una portavoce alla European Banking Authority a Londra, scadenza per CV 16 dicembre, info su eba.europa.eu. E infine un postdoc nella bioinformatica dei Big Data allo Swiss Institute of Bioinformatics di Lausanne in Svizzera, scadenza per CV oggi, info su siba.swiss. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi focus su una componente dell'espatrio solo apparentemente secondaria, la famiglia del giovane che migra, e più in particolare le sempre ansiosissime madri. Dalla disperazione all'adattamento a questa nuova situazione è la ricetta che un gruppo di mamme ha deciso di seguire, costruendo un sito web, come ci racconta Brunella Rallo, ideatrice del blog Mamme di Cervelli in Fuga. Io sono una veterana tra le mamme dei cervelli in fuga, nel senso che ho dei figli da molti anni, studiano e lavorano all'estero, ho moltissime amiche nella stessa condizione e quindi ho pensato di creare un blog dedicato a noi mamme e mi sono lanciata in questo progetto, che è un progetto, diciamo, che affronta prevalentemente gli aspetti intimistici della vita delle famiglie dei cervelli in fuga o dei giovani talenti. Quante siete adesso? Siamo tante, siamo quante sono tutti i cervelli in fuga. Cosa raccontate sul blog? Innanzitutto raccontiamo delle esperienze che nascono dal mio vissuto personale e queste si trovano su Mamme di Cervelli in Fuga alla voce La Cassetta degli Attrezzi. Cioè sono dei piccoli aneddoti, piccole storielle che servono a condividere, che spero possano servire a condividere proprio quel vissuto familiare, quella nostalgia, quell'orgoglio, quelle piccole difficoltà che incontriamo tutti i giorni. Poi abbiamo una rubrica che si chiama Trasferte e che è la rubrica di aiuto pratico e progetti comuni, questa la stiamo incrementando ora, e che è dedicata ad accogliere richieste e testimonianze specificamente legate al tema del viaggio, della trasferta delle mamme quando vanno a trovare i figli nell'altro mondo. A questi stiamo per aggiungere piccoli consigli, non so, come trovare il volo più conveniente, come preparare il bagaglio, come spedire pacchi, cioè tutte quelle piccole incombenze quotidiane che le mamme a distanza affrontano e molto spesso ci si perde, come faccio a, come fare a. Questo credo che possa essere un grande aiuto, soprattutto per quelle mamme che sono più disorientate o che si affacciano per la prima volta a questo nuovo status di mamma di cervelli in fuga. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.mammedicervellinfuga.com. Un motivo per restare o tornare. Il 20% delle imprese italiane con dipendenti ha effettuato o effettuerà assunzioni, con un recupero di oltre 6 punti rispetto al minimo storico del 2013. Per le imprese che esportano e che realizzano innovazione, la propensione ad assumere è ampiamente superiore alla media. Ciò conferma che la strada da intraprendere per sviluppare l'occupazione è quella dell'internazionalizzazione, della digitalizzazione, dello sviluppo di investimenti nella direzione della manifattura 4.0 e del sostegno alle start-up tecnologiche. Questa è la fotografia scattata dal sistema informativo Excelsior. Le assunzioni di quest'anno sono prevalentemente concentrate nel settore terziario. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internettivo, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e anche, perché no, denunce. Per mettervi in contatto con noi è davvero molto semplice. Basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, candidatevi giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.